Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, al tempo dei verdetti europei e interni e sul fronte interno. Giorgio De Luca in redazione, Filippo Oreggi in regia, ho voglia di parlarne con voi di queste giornate di sport. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666. Prima, in uno spot avete sentito la voce di Valentino Rossi. Oggi Valentino Rossi è arrivato terzo a Jerez de la Frontera, preceduto dai due spagnoli, incontenibile Lorenzo alle sue spalle, Pedrosa che alla fine si è arreso, poi appunto Valentino Rossi. Probabilmente il Milan arriverà terzo dopo la vittoria di ieri in casa con una Fiorentina molto demotivata, nonostante le bacchettate di Della Valle alla vigilia. Certamente la Juventus non giocherà la prossima Champions League, dunque fallita la missione di Zaccheroni dopo l'1-1 di oggi a Catania in rimonta, gol di Silvestri al 24esimo, pareggio di Marchisio al 7esimo. Certamente è salvo il Catania, così come l'Udinese che ha pareggiato 2-2 a Cagliari dopo essere andata sotto per il gol di Lazzari, i gol di Natale Sanchez. A ribaltare il risultato nella ripresa al 13esimo ha pareggiato Jeddah e tra poco vi faccio sentire Marino. L'Atalanta è quasi in Serie B. Il gol autorete di Peluso a 8 minuti dalla fine di Atalanta-Bologna, poi ve la racconto con calma, insomma dà praticamente la salvezza al Bologna, ma praticamente la salvezza anche alla Lazio, che questa sera gioca nel posticipo con l'Inter. Marino, e poi continuiamo a guardare i risultati. Che insomma si svolta in pagina, ecco. Possiamo dire che è anche molto probabile che lei vada al Parma? No, questo no, non ho parlato ancora con nessuno. Il campionato per noi è finito oggi perché ci siamo salvati, però non ho parlato con nessuno, per cui aspettiamo, speriamo che qualcuno ci casca un'altra volta. Fabio, a voi. Questo è Marino, che oggi si è salvato, missione compiuta per lui, non per Zaccheroni, ripeto, che è attualmente addirittura 7esimo, perché il Napoli ha vinto 2-1 a Verona con il Chievo, i gol di Dennis al 46esimo del primo tempo, pareggio di Granoscia al 30esimo della ripresa e poi Lavezzi su punizione, su errore di Sorrentino. Oggi tantissimi gli errori dei portieri seminati qua e là nelle varie partite. Ebbene, il Napoli supera la Juventus, non ha più alcuna chance, nemmeno il Napoli, di arrivare in Champions League, che ormai è un affare privato tra Sampdoria e Palermo, che oggi hanno vinto entrambe, la Sampdoria con il Livorno 2-0, gol di Cassano al 5esimo, al 100esimo per lui da professionista, quindi giornata speciale per Antonio Cassano, che oggi ha giocato una grande partita, anche un po' leziosa se vogliamo a tratti, rete di Ziegler a chiudere ogni discorso al 39esimo della ripresa con una bomba su punizione. Mentre il Palermo, gol di Cavani al 24esimo, di Miccoli al 14esimo della ripresa. Che campionato ha fatto Miccoli? Oggi mi aspetto qualche candidatura da parte degli ascoltatori per Miccoli in azzurro. Poi Caleo al 2-1 per il Siena che retrocede matematicamente da questa sera, ma era già cosa fatta dalla domenica passata. Ebbene, diventa un affare privato il quarto posto tra Sampdoria e Palermo, se la sbrigheranno tra di loro tra una settimana alle 15, inciso, per fortuna è finita l'epoca degli anticipi e posticipi, almeno per questa stagione, da domenica prossima per le ultime due di campionato in campo, tutti alle 15, ci divertiremo magari un po' di più. Palermo-Sampdoria dunque tra una settimana in Sicilia per capire chi sarà quarto e andrà in Champions League, chi sarà quinto e andrà in Europa League. Europa League che è certa invece, come detto, per Napoli e Juventus, ma attenzione perché non è indifferente arrivare sesto, arrivare settimo, perché chi arriva settimo dovrà affrontare un'estate di lavoro, perché anche lì c'è un paio di preliminari, uno addirittura alla fine di luglio e poi l'altro la seconda metà di agosto, ma non dovrebbe essere un grosso problema perché è a ridosso dell'inizio del nuovo campionato. Problema potrebbe essere invece per il primo preliminare di Europa League anticipare l'inizio della stagione. Dunque Atalanta-Bologna, che era in grosso modo la partita del giorno, finisce 1-1. L'Atalanta ha sprecato un rigore al 15esimo per un fallo di Chiaro, di Portanova su Guarente, rigore parato da Viviano e mal tirato da Valdés. Poi al 23esimo, punizione da una trentina di metri dello stesso Guarente, tiro non irresistibile ma Viviano molto mal piazzato fuori dai pali e dunque 1-0 per l'Atalanta, ed era un gol importantissimo per gli equilibri del campionato. Poi cosa succede? Al 46esimo, quindi ultimo minuto, anzi primo minuto di recupero del primo tempo, c'è un episodio molto strano in area. perché c'è una trattenuta di non violentissima di Pellegrino su Porta Nova, c'è un fischio di tagliavento, tutti si guardano in faccia a rigore, si alza un cartellino giallo all'indirizzo dello stesso Pellegrino e poi subito dopo anche un cartellino rosso per Pellegrino. In realtà poi non è rigore per segnalazione del guardalinea, è comunque episodio molto, molto nebuloso ancora. Fatto sta che l'Atalanta rimane in 10 per appunto l'espulsione di Pellegrini, in 10 gioca tutta la ripresa. Bologna che non, certo non fa una gran partita, dimostrando di avere pochissima benzina in questo finale, però riesce a pareggiare proprio 8 minuti dalla fine, 37esimo, il tiro tutt'altro che irresistibile di Jimenez, la respinta maldestra di Consigli, la palla che finisce sui piedi del povero Peluso che segna questa autorete e si mette a piangere, perché è di fatto il gol che condanna l'Atalanta a questo punto, l'Atalanta che ha 5 punti di distacco dalla coppia Bologna-Lazio. Lazio che gioca stasera con l'Inter, e i conti qui potete farli anche voi. Le ultime due partite dicono che il Bologna ospita domenica prossima, il Bologna ospiterà il Catania che è già salvo. La Lazio andrà a Livorno, al di là dei cattissimi rapporti tra le due tifoserie, questioni politiche sulle quali non voglio nemmeno entrare, però calcisticamente la Lazio gioca sul campo di una squadra già retrocessa. Ultima giornata, Cagliari-Bologna, col Cagliari già salvo naturalmente, e Lazio-Udinese, stesso discorso per l'Udinese. Dunque possiamo già dire da stasera che, salvo ribaltoni difficilmente prevedibili in tutta onestà, l'Atalanta accompagnerà il Siena e il Livorno in Serie B. Morale, ve la leggo la classifica, che naturalmente deve ancora registrare il risultato di questa sera, cioè di un Lazio-Inter che alla fine ci darà l'ultimo verdetto ancora davvero in sospeso, quello dello scudetto. Scusate se è poco. Roma 74, Inter 73, Milan 67, Sampdoria 63, Palermo 61. Queste 4 di queste 5, beh, Roma-Inter certamente, il Milan certamente, e poi o Sampdoria o Palermo appunto andranno in Champions League. In Europa League andrà la perdente del confronto tra Sampdoria e Palermo insieme a Napoli che ha 56 punti e alla Juventus che ne ha 55. Discorso europeo finisce qui perché è già fuori il Genoa che oggi ha perso 3-0 senza muover foglia a Bari, gol tutti nella ripresa, Meggiorini, Castiglio, Barreto, brutto Genoa, molto demotivato. Genoa 48 punti, Fiorentina, Bari e Parma 46, Chievo 44, Cagliari 43 insieme all'Udinese, Catania 41, tutte salve fin qui. E poi Lazio-Bologna 40 punti, Atalanta 35, Siena 30, Livorno 29, le ultime due già retrocesse matematicamente in Serie B. Traffico, poi torniamo. Strade in diretta. A causa di un incidente ora comunque risolto, restano 5 km di coda in diminuzione sull'autosole tra il bivio per la 11 e Firenze e Certosa sulla carreggiata verso Roma. Sempre in autosole code per un altro incidente tra Orvieto e Attigliano sulla carreggiata verso Roma. Traffico di rientro verso le città molto intenso sulla rete autostradale, le piogge al centro-nord complicano gli spostamenti. Ancora in autosole alle porte di Firenze, code a tratti per il traffico intenso verso Bologna tra Incise, Firenze e Scandicci. Sempre in Toscana code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Vicarello e Lavorie e tra Ginestra-Fiorentina e Lastro-Assigna sulla carreggiata verso Firenze. In Liguria, rallentamenti per un lungo tratto della 10 sulla carreggiata verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Savona e code poi ancora verso Genova tra Albisola e Varazze. Code a tratti in direzione del capoluogo Ligure anche lungo la 12 Genova-Livorno a partire da Chiavari. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica in direzione Bologna tra Cattolica e Rimini Nord e tra Forlì e Castel San Pietro. Code anche sulla 15 della Cisa, 2 km tra Parma Ovest e l'innesto per l'autosole verso quest'ultima. Il traffico è ora rallentato anche alle porte della capitale, sulla diramazione Roma Nord dell'autosole, sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo e sulla Roma-Civitavecchia. È tutto per il momento, strade in diretta, i prossimi aggiornamenti sul traffico tra circa mezz'ora. A tempo di sport. Sono arrivati diversi messaggi, tra cui questo: un Agnelli alla guida, il portafoglio pieno per il prossimo mercato non bastano, servono dirigenti capaci, intelligenti e silenziosi come Marotta, che pure, caro Giacomo che scrive questo messaggio, arriverà alla Juventus, che sta definendo appunto i quadri dell'organico, oppure come questo, che brutta Juve non bastano schemi, campioni e bravi manager per vincere le partite, serve anche quell'orgoglio che è andato perduto in questi ultimi anni, scrive un ascoltatore. Un altro ancora: la lealtà sportiva lasciamola agli altri, le ultime giornate del campionato sono lo specchio dell'Italia. Un po' difficile dargli torto, anche se insomma, anche se le prove non le abbiamo, però sappiamo bene, il linguaggio del corpo qualche volta è ancora più significativo delle prove provate. 800 24 0024, numero verde. Intanto saluto e ringrazio Massimo Callegari per condividere questi verdetti. Ciao Massimo. Ciao, buonasera. Da dove vuoi partire? Dalla Juventus che non va in Europa League, in Champions League, ed è ufficiale matematico nel giorno in cui si insedia il nuovo presidente. Vuoi partire da, non lo so, da quell'autogol di Peluso, che è uno dei più importanti, delle marcature più importanti del campionato, no Massimo? Sì, questa è l'ultima, è veramente una delle pietre di questo e su questo campionato, probabilmente, indipendentemente da quello che ne conseguirà poi sul match di questa sera tra Lazio e Inter, credo che ne parleremo a parte, ma proprio per le conseguenze dirette che ha sull'Atalanta e su Bologna, perché all'Atalanta sono mancati molti momenti e molti episodi nel corso della stagione per avvicinare la salvezza, e il Bologna anche in questa partita giocata a lungo con un uomo in più ha avuto modo di dimostrare quanto era arrivato sofferente alla fine, e il calendario sarebbe stato molto complicato, perché la settimana prossima è vero l'Atalanta avrebbe affrontato il Napoli, deve affrontarlo, ma il Bologna avrebbe trovato il Catania. Certo. Quanto alla Juventus, è un fallimento totale questo, l'entusiasmo che c'era l'estate scorsa è stato sicuramente eccessivo e lì la società ha commesso il primo errore, e poi se come noi abbiamo sempre fatto, si esaminano la gestione economica e amministrativa del club con parametri molto chiari e molto logici, lo stesso va fatto dal punto di vista tecnico, e quindi chi ha gestito sinora a livello presidenziale e di acquisti, quindi la figura del direttore sportivo, dopo 3 anni è giusto che cambi, perché i risultati non sono stati all'altezza. C'è Paola che scrive: ma lei ha presente quanti giocatori ceduti dalla Juve hanno fatto bene, invece Melo, Diego, Cannavaro, Grosso, Thiago, eccetera eccetera eccetera. No, non proprio così. Alcuni sono andati in squadre vere già fatte, già formate. Questa Juventus non è una squadra vera già formata, anzi è molto lontana dall'esserlo. Tra poco sentiamo anche parlare Zaccheroni, che fino a ieri almeno a parole aveva detto di crederci ancora, cosa insomma fa parte del contratto, no? Dichiarazioni da contratto ancora molto corto, quello di Zaccheroni, molto breve, perché come tutti sanno lui per primo non siederà più su quella panchina. È difficile, Massimo, però astrarre l'autorete di Peluso anche dalla partita di stasera, perché sì, di fatto quel gol, quell'autorete maldestra salva la Lazio. No, quello è vero, io parlavo di prime conseguenze, lui sicuramente l'ha pensato dirette, soprattutto esatto, alla sua squadra e anche al Bologna, che sarebbe rimasto pienamente coinvolto nella bagarre finale. È vero per questa sera, è anche vero che la partita di ieri, anche se con connotazioni territoriali diverse, perché il Parma non aveva coinvolgimenti come li ha la Lazio, non solo tecnici sul campionato, ha dimostrato che comunque qualcosa le squadre sono tenute a fare, soprattutto quando l'attenzione è totale, cioè quando la partita non è nascosta fra altri 5-6 al pomeriggio, ma è seguita da tutti con grande attenzione. Questo non significa che poi la determinazione sia la stessa e la cattiveria in certi momenti in un'area e nell'altra sia la stessa, questo non è così e non potrà essere così, però è già qualcosa di diverso rispetto a quello che succedeva qualche anno fa, ed è qualcosa di simile a quello che avevamo visto in Inter-Siena, quando l'Inter 2 anni fa pareggiò 2-2, perché comunque qualcosa in più dell'avversario devi fare, non ti viene regalato tutto in maniera così chiara, e avevamo visto anche ad esempio un'altra partita che avevo seguito di persona, che era Torino-Fiorentina sempre quell'anno, quando la Fiorentina doveva andare in Champions, segna 10 minuti alla fine, il Torino non giocava una partita alla morte, ma qualcosa la Fiorentina dovete fare e Osvaldo segna quel gol di rovesciata, se no forse sarebbe finita 0-0 e il Milan sarebbe andato in Champions. Quindi qualcosa dobbiamo aspettarci, poi non viviamo nel paese dei balocchi e sappiamo che Lazio-Inter è una partita diversa da tutte le altre quando di mezzo c'è la Roma. Diciamo che ha una favorita in linea di massima, sì, Lazio, certo. Inter. E poi se tutte e due giocano al 100%, comunque l'Inter è favorita. Certo. Sentiamo insieme Zaccheroni con Sky. Di avere fallito un obiettivo, le chiedo, al di là degli infortuni e della condizione dei giocatori, al secondo posto in nella classifica di quello che non è andato, secondo lei che cosa c'è? Ah, io credo... Dico secondo posto perché so che gli infortuni spesso ha detto come primo. No, io non ho mai detto gli infortuni. Gli infortuni c'erano anche prima che arrivassi io. Io al primo posto, come certezza, metto quello che ho sempre detto: la scarsa condizione di quelli che hanno dovuto giocare, che quello non ci ha consentito di proporci con brillantezza. C'è altro? No, dopo sicuramente il non poter allenare la squadra, perché giochi ogni tre giorni, perché l'Europa League è diversa dalla Champions, giochi praticamente tutte le settimane, per due mesi abbiamo giocato ogni tre giorni, e quindi anche lì non ci siamo allenati. E dopo sicuramente gli errori li hanno commessi i giocatori, ma sicuramente qualcuno l'avrà commesso anche l'allenatore. Ecco, da questo punto di vista le chiedo, oggi abbiamo visto una squadra che ha corso, come ci ha detto nel pre-partita, la squadra è entrata in condizione e comunque ha retto anche col caldo contro il Catania, però quello che appare abbastanza evidente, seppur in una partita in cui la Juventus ha avuto occasioni, almeno due nettissime con Del Piero, l'incapacità di sovrastare sul piano del gioco gli avversari. Che cosa è che non funziona da questo punto di vista? Che cosa è che impedisce alla Juventus di avere una manovra fluida, di costruire? E il problema a centrocampo soprattutto? Diciamo che la partita di oggi l'ha fatta la Juventus. La Juventus ha giocato contro una squadra che in casa, in questa stagione, girone di ritorno soprattutto, si è fatta valere contro chiunque. Qui hanno perso il Palermo, perso l'Inter, qui hanno perso diverse squadre, e anche sonoramente. Quindi non abbiamo incontrato... So che oggi non potete dire che erano sui lettini di spiaggia, come si è detto, di quelle che abbiamo affrontato ultimamente. Questi erano motivati, volevano conquistare il punto che gli consentiva di salvarsi, l'hanno conquistato. La mia squadra ha fatto la partita, ha creato le situazioni, le occasioni per vincere la partita. Ha rischiato anche una beffa al 90esimo, quella di Maxi Lopez, che ha vinto due rimpalli consecutivi, abbiamo rischiato addirittura di perdere la partita, però la partita l'abbiamo fatta. Poi la brillantezza arriva dalla condizione fisica, ma anche dalla condizione mentale. Devi avere l'entusiasmo di una classifica che ti gratifica. E poi noi, ripeto, sul collettivo ci abbiamo sempre lavorato poco e niente, perché giocando, come ho detto prima, ogni tre giorni, credo che abbiamo utilizzato tutti i moduli possibili in base, come ho detto ieri in conferenza stampa prepartita, ho fatto più commissario tecnico che l'allenatore, perché in base a chi avevo cercavo di collocarli nella loro posizione che gli consentisse di non andare eccessivamente in difficoltà, e di conseguenza la fluidità di manovra non può essere certamente l'arma migliore di questa Juventus. Siamo, come potete capire, alla difesa di ufficio, no? Da parte di Zaccheroni, agli alibi un po' di cristallo, secondo me. 800240024 per le vostre parole, quelle di Massimo Calegani invece le sentiamo subito. Ma la cosa peggiore è che, come avevamo avuto il modo di parlare già una settimana scorsa, due settimane fa, Zaccheroni non solo lascia una squadra che a oggi dovrebbe cominciare la stagione ufficiale il 29 luglio, quindi sì, Iniziare la preparazione a Mondiale ancora in corso, un mese prima almeno, ma non lascia nulla, cioè non c'è un giocatore individualmente che sia stato recuperato di quelli che erano in grande difficoltà nella gestione precedente. La gestione di Del Piero è stata esattamente uguale a quella di tutti i suoi predecessori, Capello escluso, e parliamo di un fuoriclasse anche per come ha gestito i grandi campioni nella sua carriera, e non c'è stato non c'è stata un'evoluzione tattica. Non è che oggi si possa dire la Juventus può giocare con la difesa 3, con il centrocampo a rombo, con tre punte, sì, o in altro modo, o possa cambiare pelle in una maniera più definita e con dei risultati poi effettivi. Quindi questo è il fallimento anche tecnico dell'allenatore, che parte da fallimenti precedenti di acquisti e di individuazione di giocatori, e che parte molto anche proprio dalla zona centrale del campo. A questo proposito, se la Juventus crede di poter risolvere queste difficoltà di gioco solo con l'acquisizione di Mascherano, magari affiancando a Felipe Melo, non è il miglior punto di partenza, secondo me, perché quest'anno Mascherano, senza Xabi Alonso, al Liverpool ha fatto meno di quanto può fare come organizzatore di gioco. Massimo, diciamo che Zaccheroni non è riuscito a centrare obiettivi di classifica, perché al di là di tutto, come ricordavi, la Juventus è settima, 55 punti, ne ha, insomma, ne ha praticamente 20 di distacco dal vertice, 19 di distacco dalla Roma, attuale capolista. Non è riuscito comunque a far emergere un giocatore, non è comunque riuscito a impostare nulla per la prossima stagione. Si gioca ogni tre giorni Europa League, la Juventus è già fuori da un po' dall'Europa League, fuori da un po' dalla Coppa Italia, e mi pare che anche l'Inter giochi una volta ogni tre giorni, grosso modo, no? Sì, poi giocare vincendo o uscendo qualificati dal campionato sicuramente dà una carica diversa che è quella che la Juventus ha avuto dall'Europa League, con le delusioni che ha avuto, però non è una giustificazione plausibile, e soprattutto se un allenatore è un allenatore da grande squadra deve avere la capacità anche di gestire questo tipo di situazioni, questo tipo di calendario, se no non ci sono le caratteristiche e le qualità necessarie per questa gestione, perché è una gestione che tutti i grandi allenatori affrontano, e non abbiamo mai sentito in questi anni allenatori lamentarsi precisamente in maniera così costante poi come ha fatto Zaccheroni, perché può esserci un periodo in cui tu dici va bene, giochiamo ogni tre giorni, ci sono delle difficoltà, ma non può essere il refrain costante che Zaccheroni ha portato in questi mesi per motivare, non per giustificare, ma per motivare il rendimento della sua squadra. Poi è vero che se un giocatore deve recuperare in maniera più affrettata, poi ci sono più probabilità che si infortuni, più sei avanti nella stagione le probabilità aumentano, però sono problemi che tutti gli allenatori delle grandi squadre devono affrontare, hanno dovuto affrontare e affronteranno sempre. C'è un ascoltatore di Bergamo arrabbiato, lo capisco, con l'Atalanta se recava con due battute, se un arbitraggio del genere l'avesse subito una grande, che vi fa audience, chissà quanto ci sguazzavate. Ma non la vedo proprio così, caro Pierangelo. Io sinceramente non ho ancora capito quello che è successo all'ultimo minuto, al primo minuto di recupero del primo tempo. Certamente Tagliavento non ha arbitrato bene questa partita, al di là dell'episodio, un fallo di Mutarelli che poteva essere letto in un'altra maniera, con Mutarelli già ammonito, è stato ripetutamente sottolineato su Sky. Sono contrario alla polverizzazione, l'ho sempre detto, delle partite in mille singoli episodi. Certamente quella di oggi non è stata ben diretta, certamente il Bologna ha giocato una pessima partita, certamente l'Atalanta meritava di vincere, però non sarà solo colpa di Tagliavento di oggi se l'Atalanta si è ridotta a giocare in queste condizioni una partita e una corsa salvezza pressoché impossibile. Massimo, per chiudere, che Inter t'aspetti questa sera all'Olimpico, al di là di questa autorete di Peluso, che Inter t'aspetti dopo la partita mostruosa di Barcellona? Sicuramente una squadra che partirà con lo stesso spirito con cui è partita a Firenze, quando anche lì c'era stato un po' alla vigilia qualche perplessità / sospetto sull'atteggiamento della Fiorentina, che poi avrebbe giocato in Coppa Italia tre giorni dopo ancora con l'Inter. Quindi una squadra che non si aspetta niente dall'avversario, una squadra che, come da tradizione di Mourinho, gioca all'inizio all'attacco a ritmi molto alti e che sa che andare in vantaggio in una gara del genere a maggior ragione sarà importante, sicuramente con qualche cambio nei giocatori, però anche con una forza, un entusiasmo, una carica pazzeschi, perché nella storia moderna non si ricorda l'Inter accolta 5.000 persone di notte a Malpensa con tutti alla pinetina e una fame di risultati del genere e un'unità di intenti del genere da parte di tutti, che sembra parlino istruiti dall'allenatore o da un'entità superiore, per cui hanno ben chiaro che ogni partita successiva è quella più importante e ogni impegno che arriva è più importante di tutti quelli che arriveranno dopo, quindi una squadra con una grande mentalità, questo mi aspetto. Poi chiaramente nelle gambe ci sarà qualcosa di pesante, di acidolattico, ma è la testa che guida le gambe. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. La storia recente non si ricorda un'Inter attesa da 5.000 tifosi, si ricorda un'Inter attesa all'aeroporto da trasferte europee anche da tanti tifosi, ma non con le stesse intenzioni, diciamo così. Grazie Massimo. Grazie a te, buonasera. Buon lavoro per l'ultimo posticipo dell'anno. Adesso ci fermiamo un attimo, subito dopo cominciamo a parlare con gli ascoltatori che già si stanno prenotando. Il primo in ordine è Luca da Torino, poi altri arriveranno. 800 24 00 24, vi aspetto qui. The Chieftains con Ray Cooter, San Patrizio. I Chieftains raccontano in musica una grande storia di coraggio in San Patrizio. San Patrizio, un album da oggi nei migliori negozi di dischi. Scorte introvabili? Inefficienze? Alti costi di movimentazione? Scaffalature non certificate? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block, membro certificato ACAI CISI, il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Modulblock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino. Provare per crescere. Le richieste impossibili. Vorrei un investimento che mi rassereni sul futuro dei miei risparmi. Come i bot? Beh, i bot rendono poco. Il fai da te è troppo rischioso. Preferirei qualcosa di più innovativo. Sì, e magari con una cedola periodica e senza commissione d'ingresso. Bravo! Ma non è una richiesta impossibile. È Arca Cedola, la soluzione già scelta da migliaia di italiani. Arca SGR, più valore al tuo risparmio. Per trovare la banca più vicina a te vai su arcaonline.it. Offerta limitata. Prima dell'adesione leggere il prospetto d'offerta. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Al sud transiteranno un po' di nuvole che però lasceranno spazio anche ad ampie schiarite, soprattutto a metà giornata. Migliore in parte anche al centro-nord, con nuvolosità meno compatta e insistente, con residui rovesci isolati al mattino su basso Lazio, Lombardia orientale e Triveneto. Rovesci più frequenti nel pomeriggio su Alpi, Piemonte, Alta Lombardia, Veneto e Friuli. In serata peggiore in Sardegna per una nuova perturbazione che poi martedì porterà piogge sparse un po' in tutto il centro-nord. Le temperature rimangono stabili o in lieve aumento, con valori tra 17 e 22 gradi al centro-nord fino a 24-27 gradi al sud. Per maggiori dettagli consultare il sito meteo.it. E per il meteo è tutto. Sono Alberto, faccio il commercialista. Come libero professionista so bene quanto è importante tenere i costi sotto controllo. Per questo ho scelto Vodafone Partita IVA. E risparmio! Fallo anche tu. Passa a Vodafone Partita IVA. Con la promozione esclusiva paghi la metà. Se hai la partita IVA, hai il 50% di sconto sulle nostre migliori offerte, a partire da 12,5 euro al mese. Affrettati! È una promozione a edizione limitata. Vieni su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Per me, niente è meglio di Vodafone Partita IVA. Stop! Stop ai rumori che arrivano in casa da sopra, da sotto, da stanze vicine. Sentite invece che silenzio. È il silenzio di una casa protetta da isolanti acustici Index. Fonostop per pavimenti, Top Sealant per pareti. Innovativi e conformi alla legge per l'isolamento acustico dei fabbricati. Esclusivi di Index, azienda di prodotti e sistemi per l'edilizia. Esporta in oltre 100 paesi nel mondo. Indexspa.it. Paola, hai messo in carica il cellulare? Certo, e tu hai messo in carica il portafoglio? Certo, ho incaricato un vero consulente finanziario, indipendente e associato NAFOP. Lo pago per fare solo i miei interessi e lui mi ripaga con gli interessi. Prenota un incontro a costo zero su veroconsulente.it. Elenco consulenti su Plus sole 24 ore di sabato. Tempo di sport. 800240024, adesso cominciate a parlare voi. Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera, complimenti, vabbè, quelli sono grazie. Matematici a lei e anche al maestro Garanzini. E, io mi così non so, forse vivo un altro mondo, ma vedo che molta stampa italiana pensa che la partita di stasera sia già vinta, pensa che sia una passeggiata della Lazio per Campo dei Fiori, che non ha, vabbè che il calendario della Lazio a prescindere da partita stasera è nettamente in discesa, però sembra che così, come si dire, la Lazio sei sicura che non si impegnerà perché l'Inter è più forte, perché l'Inter è, cioè le partite vanno giocate. Io ho visto oggi Chievo-Napoli, cioè i due gol ha fatto due gol i portieri, insomma sì. Quindi tutto questo così accanimento verso la Lazio, non so se pro a favore o pro o contro, così. No, cioè, ma semplicemente per stimolarla di più ma semplicemente sappiamo quanto conti il campanile a Roma, no? mettendola proprio su, lasciando stare il campanile, giocherà comunque una squadra che vuole vincere lo scudetto, che ha lo scudetto tra le mani, e una squadra che ha meno stimoli, possiamo metterla così. Poi è chiaro che la storia anche molto recente del calcio italiano è fatta di Lecce, di Roma-Lecce, è fatta di Perugia-Juventus, è fatta del famoso 5 maggio che anche oggi rimbalza. È chiaro che quest'Inter non assomiglia in nulla, se non nelle magliette, a quella del 5 maggio. Insomma, togliendo tutto questo, lei ha ragione, come ha detto altra ieri sera Ranieri, mentre De Rossi si è lasciato andare ad un incredibile, considerato quel campanile di cui sopra, un incredibile Forza Lazio, ieri Ranieri ha detto forza al calcio, ci crediamo, la Lazio farà la sua partita, eccetera, eccetera. Stasera li vediamo. Luca, non manca moltissimo, no? No, ma io sono molto fiducioso dell'Inter, quindi non vedo. Però c'è così una strana aria, no? Come se fossero venuti al Gran Consiglio i maestri gufi. Io ne ho viste tante, ho visto. Sì, io capisco. Dopo 38 anni, io capisco. Però, vede, voi interisti dovete capire una cosa: quest'Inter, io capisco le tante scottature che sono, di cui ci sono ancora i segni sulla pelle, immagino, no? Però quest'Inter non è parente in nulla. In nulla, se non nei colori della maglietta, con quella che era maestra nel complicarsi la vita, in nulla, Luca. Poi capisco la scaramanzia anche, capisco tutto quanto, capisco il passato che è difficile cancellare, però se c'è una cosa che quest'Inter ha è la capacità di metabolizzare la fatica, di guardare sempre avanti. Abbiamo sentito l'altro giorno i giocatori nello spogliatoio di Barcellona parlare della partita di questa sera, di quella con il Chievo che verrà, eccetera. L'Inter è una grande squadra anche in questo, e come tutte le grandi squadre difficilmente lascia qualcosa per la strada a prescindere dall'impegno della Lazio. Gianni da Bologna, buonasera. Buonasera, sì, sono casualmente a Bologna, io non tifo Bologna e ho visto comunque in TV la partita dell'Atalanta. Sì. E siccome il signor Tagliavento veniva designato da tutti come il nuovo genio del fischietto, io ho visto le immagini e mi sono rimasto stupito da come una partita importante, ripeto, io non sono né dell'Atalanta né del Bologna, sono della Juve, quindi proprio non me ne... però dal punto di vista di comportamenti di un arbitro che non ha espulso un giocatore del Bologna che ha reiteramente fatto falli su falli, e sol perché un giocatore che è stato ammonito andandosene verso il centrocampo avrà detto qualcosa sicuramente contro l'arbitro, l'ha mandato a quel paese, però non è stata né una protesta plateale, no, né un gesto, probabilmente nulla. gli ha detto una parolaccia pesante, ma gliel'ha detta la parolaccia poi pesante, sono ma d'accordo. Allora espelliamo tutti i giocatori che dicono le parolacce pesanti, facciamo tutta una regola unica. Guardi, sono d'accordo sul fatto che il grande arbitro lì si gira dall'altra parte e fa finta di niente, anche perché la prima ammonizione avvenuta 30 secondi con 30 secondi di anticipo e sulla cui dinamica sono ancora perplesso, insomma. È chiaro che il bravo arbitro si gira dall'altra parte e se ne va, no? Fa finta di non sentire, fa il finto tonto, fa il pesce in barile. È chiaro, no? Data l'importanza della partita, dato tutto quanto, Tagliavento evidentemente non è ancora un grande arbitro, è ancora un po' troppo permaloso, perché quel cartellino è stato molto pesante e molto influente, a prescindere da quell'offesa che certamente c'è stata che Pellegrino gli ha rivolto. Poi semmai lo prendi un quarto d'ora dopo e gli dici: adesso sei il primo che protesta, tu o tutti i tuoi compagni, vi caccio e vi faccio perdere la partita. Questo può succedere, però in quel caso lasci correre. Certamente Tagliavento ha fatto dei gravi errori, certamente un grave errore l'ha fatto anche Valdez, che ha tirato malissimo un calcio di rigore che poteva fare tutta la differenza del mondo. Dunque di errori ne hanno fatti almeno, ne hanno fatti un po' tutti in questa partita, no? Sicuramente, però io poi voglio fare un passo indietro su Collina, che non designa Rosecchi per motivi personali, e qui allora si entra in un altro territorio, cioè nel senso che non si mandano gli arbitri bravi, ma solo alcuni che sono più amici di qualcun altro. Allora anche Collina ha dimostrato anche lui di non essere questo dio che sembrava, che spesso poi ci si è messo lui da solo sul piedistallo. Ecco, per l'appunto non entriamo in questo territorio almeno oggi, perché non abbiamo portato gli stivali. Ci sentiamo su questo territorio magari un'altra volta. Grazie. Roberto Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, gente, mi tolga questa curiosità. Se posso. Mi spiega, mi deve spiegare se lei riesce o può, ne ha la possibilità, per quale motivo nella Juve ci si gira intorno. Insomma, ci vuole tanto a dire che Secco deve essere cacciato, ma proprio lontano anni luce da Torino, e che Blanc gli deve andare dietro, ma proprio anche lui molto lontano, perché gli acquisti di Amauri, perché 17 milioni di Sciabia non erano troppi, invece 25 di Felipe Melo no. Sì. E perché se io da Juventino sfegatato, quanto sportivo, ma se no, sì, scusi, sì. Ho fatto le da Juventino non è per quello che sto. No, ma Roberto, ma però mi sembra che queste cose siano state dette già tante volte, no? Per quello gli chiedevo se lei mi può dare qualche ragguaglio, perché è arrivato Andrea Agnelli, viva, ma ho letto che comunque Blanc rimane. No, ma allora chiariamo un punto, magari due. Blanc secondo me è un bravissimo amministratore. Se non gli si dà in mano il pallone, non gli si dice occupa di questioni calcistiche, sugli altri fronti ha dato prova di essere uno che ci sa fare, no, anche nelle sue precedenti esperienze professionali che col calcio non c'entravano nulla. La Juventus da molti punti di vista è davanti di parecchio anche a società che la sopravvanzano in classifica, a uno stadio in costruzione, a un'organizzazione aziendale per il nostro calcio certamente all'avanguardia. È chiaro che la pecca di questa Juventus, e Roberto lei sa benissimo che si è detto mille volte, ma non da oggi, non da ieri, non dal mese scorso, neanche dall'inizio di quest'anno, ben da prima, i problemi della Juventus nascono da una società che è calcisticamente troppo giovane, no? Adesso verrà ricostruita questa società. Mi sembra importante il fatto che su quella poltrona presidenziale andrà a sedere Andrea Agnelli, perché è un segno della proprietà che dice non molliamo, andiamo avanti, ricostruiamo da zero, come si diceva prima, perché non c'è nulla che possa essere salvato di questa stagione, ricostruiamo da zero. Credo che la carica di Andrea Agnelli sia una garanzia per i tifosi. È chiaro che la dirigenza calcistica sarà totalmente nuova, a partire probabilmente da Marotta, probabilmente da Benitez. Il fatto che arrivi Benitez e il fatto che ci sia Andrea Agnelli mi porta a pensare che la proprietà abbia intenzione di spendere tanti denari sulla rifondazione di questa squadra, che sarà totale, io credo. Traffico, poi torniamo di nuovo insieme. Pubblicità. Il conto di che banca? Il conto Banca ha un canone di un euro al mese, senza sorprese. Per i fogli informativi 848 444 4488 o chebanca.it. Che Banca, gruppo Mediobanca. Strade in diretta. A causa di un incidente sull'autosole ci sono 5 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. Traffico di rientro verso le città molto intenso sulla rete autostradale. Le piogge sulle regioni del centro-nord complicano gli spostamenti. Ancora in A1 alle porte di Firenze ci sono code a tratti in entrambe le direzioni. Situazione difficile anche sulla 11 Firenze-Mare, code a tratti per diversi chilometri tra l'innesto per la 12 e Pistoia verso Firenze. Sempre in Toscana code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Lavoria e tra Ginestra-Fiorentina e Lastra-Signa verso Firenze. In Liguria rallentamenti per un lungo tratto della 10 sulla carreggiata verso Genova, anche per un incidente tra Albenga e Savona, e code poi ancora tra Albisola e Varazze. Code a tratti verso il capoluogo ligure anche lungo la 12 Genova-Livorno a partire da Rapallo. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla 14 Adriatica in direzione Bologna, tra Pesaro e Rimini Nord, tra Forlì e Castel San Pietro. Incolonnamenti poi sulla 15 della Cisa, 4 km tra Parma Ovest e l'innesto per l'autosole verso quest'ultima, e proprio sull'autosole per un incidente si rallenta tra Parma e Fidenza verso Milano. Traffico intenso e code anche sulla 22 del Brennero, tra Carpi e l'autosole verso quest'ultima, sul tratto Veneto della 4 tra il passante di Mestre e Padova Est verso Brescia, e proseguendo verso Milano poi code a tratti tra Brescia e Bergamo. Traffico rallentato anche su tutte le autostrade alle porte della capitale, da segnalare in particolare le code sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova fino al grande raccordo anulare. Ed è tutto per il momento, strade in diretta tra circa 30 minuti. tempo di sport. Rapidamente Pietro da Milano, poi introduco un ospite. Pietro, buonasera. Sì, buonasera. Molto velocemente, non faccio i complimenti perché li fanno tutti e sono grazie, un po' scontati, glielo dico davvero. Allora, io sono un tifoso della Roma che abita qua a Milano. Speravo nella vittoria dell'Atalanta, quindi il gol di Peluso ci lascia un po' così. Sì. Però, essere onesti, stasera comunque è andata a finire pomeriggio. L'Inter è nettamente più forte. L'unica speranza è speriamo che non vincano i più forti. Poi è l'unica speranza. E questa ci sta assolutamente. Dica. Ecco. Poi, per quanto riguarda la mia squadra, la Roma, io il mio obiettivo personale era arrivare davanti a Juve Milan, perché ritengo la mia squadra più forte di Juve Milan. Assolto. Va bene così, peccato sì, perché vabbè, eravamo primi, con la Samp è andata male, però va bene così, senza va bene. E un'ultima cosa, i complimenti al Chievo, perché in settimana sentivo la vostra trasmissione alle 2, sentivo che il Chievo è la seconda miglior difesa, tralasciando oggi, con 10 rigori subiti e 2 a favore. Cioè è una cosa che secondo me veramente bisogna solo fare gli onori al Chievo, perché se fosse successo alla Roma, mi davano 10 rigori contro e 2 a favore, non so cosa succedeva. Sì. E invece loro zitti, hanno lavorato, poi ripeto, seconda miglior difesa, secondo me è una cosa sì, veramente, sì, certo, cioè è strepitosa. Io ho tutti gli onori a Di Carlo, Campedelli, veramente. Sì, sì, hanno fatto un altro piccolo miracolo di artigianato, un altro piccolo grande miracolo di artigianato, per l'appunto, con una squadra che non ha un organico eccesso, ma ha sfruttato in questo modo quello che c'era a disposizione. Grande stagione, certamente quella del Chievo. Invece saluto e ringrazio Roberto Perrone, inviato e penna di riferimento del Corriere della Sera. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Visto che sei a Catania, io volevo farti qualche domandina secca. Che effetto ti fa vedere la Juventus fuori dalla prossima Champions League, mentre la Sampdoria, i tuoi cugini, visto che sei dichiaratamente genoano, oppure il Palermo dentro, che effetto ti fa? Siccome seguo la Juve da molti anni, è già successo che la Juve non andasse in... ho già assistito a... un anno addirittura nel 1990-91 uscì del tutto dall'Europa allenatore Gigi Maifredi, nel campionato 98-99 quello delle dimissioni di Lippi e dell'arrivo anticipato di Ancelotti uscì anche allora, però allora, come se vi ricordate, c'era la porta dell'Intertoto. Sì. Giraudo disse non c'è problema, fanno l'Intertoto, finiscono prima le vacanze, e fecero l'Intertoto ed entrarono, quindi diciamo che è la terza volta che succede negli ultimi 20 anni. Credo che però il problema non sia fare l'Europa League, il problema sia che in questo momento non si sa cosa diventerà questa Juventus, mentre 20 anni fa e 10 anni fa comunque era all'interno di un progetto ben chiaro, di una situazione ben chiara, di una linea ben chiara. Adesso invece la linea è tutta da costruire, ci sono delle grosse novità. Quest'anno è stato di nuovo, c'è un'altra rifondazione dopo quella del 2006, un presidente col nome Agnelli, un nuovo allenatore, un nuovo direttore tecnico, insomma vediamo, insomma è una situazione completamente diversa. C'è da ripartire da zero, su questo non ci sono discussioni. Anche Zaccheroni, si diceva prima, non ha lasciato nulla a chi verrà dopo di lui, al suo erede. Zaccheroni aveva cominciato abbastanza bene, però ha pagato anche lui errori del passato, molti infortuni, molti errori, soprattutto il peccato originale di una squadra costruita male, una squadra male allenata, una squadra con grandi difficoltà che non è riuscito a tirare fuori dalle secche. Insomma è una stagione segnata questa, purtroppo segnata dalle 4 vittorie iniziali che hanno illuso Ciro Ferrara, non gli hanno fatto capire che questa è una squadra imperfetta e quindi da correggere, e gli hanno fatto pensare invece prima o poi torneranno quelli che vincevano, invece già allora si vedeva che questa è una squadra che concedeva moltissimo, il migliore in campo era sempre Buffon, insomma, quindi sì, è una squadra messa male, una squadra messa male, che qui Zaccheroni purtroppo non è riuscito a incidere più di tanto. Che effetto ti fa invece vedere l'Inter in finale di Champions League? Io ho qui davanti un plico di statistiche: miglior attacco del campionato 68 gol, miglior difesa 31 gol, minor numero di sconfitte 4, maggior numero di vittorie, adesso la Roma ne ha 22 perché ha giocato ieri, miglior differenza reti, è la squadra migliore del campionato italiano. Io ero sempre convinto che avrebbe vinto lo scudetto e che solo lei poteva perderlo. in campo internazionale, che bisogna riconoscere a questo straordinario motivatore di Mourinho, che ha saputo dare quella sicurezza che mancava a questa squadra, e questa sicurezza si è tradotta nella finale di Champions League. Quindi diciamo che se lo merita pienamente, come l'altra squadra partecipante, Bayern, che io ho visto nel momento più disastrato della storia, e che la Juve poteva far fuori con un pareggio, invece le ha permesso di andare avanti, e come succede sempre con i tedeschi, se non gli schiacci te li ritrovi alla fine. Senti, vado con l'ultimo, che effetto ti fa, che è questo: sentire Leonardo che le canta Berlusconi peggio di Fini? Ma io naturalmente non entro nel problema politico, ma nel problema calcistico sì. Per me Leonardo è una bravissima persona, è uno che si è messo, ha rischiato facendo l'allenatore del Milan senza nessuna esperienza, è stato chiamato perché è stato sempre innamorato del Milan, mi sembra che lo abbiano ripagato male, considerando il fatto che io ho preventivato che il Milan poteva arrivare serenamente dal secondo all'ottavo posto con più propensione per l'ottavo, è riuscito comunque ad arrivare, probabilmente riuscirà ad arrivare terzo, comunque entrerà direttamente in Champions League, ecco, non vedo cos'altro poteva fare con la squadra a disposizione, una squadra vecchia, una squadra logora, una squadra con un mucchio di infortuni come la Juventus, insomma, quindi cioè, secondo me ha fatto una stagione straordinaria, per me al di sopra delle aspettative, per quello che io pensavo, quindi sono sicuramente dalla parte di Leonardo. Certamente, il tuo Genoa invece che prende 60 gol oggi... Il mio Genoa mi ha ferito al cuore, diciamo che purtroppo ci è mancato più che i gol da prendere, che il Genoa ha sempre presi tanti, devo dire, almeno per il tipo di gioco che fa la squadra non sono i gol che si prendono, sono quelli che non si fanno. Ci sono mancati i gol in più, ci sono mancati, come io ho sempre detto, i gol di un grande centravanti. Due anni fa avevamo Borriello che ha fatto 20 gol, l'anno scorso c'era Milito che ne ha fatti altrettanti, e quest'anno niente. Quest'anno purtroppo è stato sbagliato il centravanti, cioè in certe partite in cui magari ti serve il gol raffazzonato dell'attaccante di razza, e questo è mancato. Quindi secondo me al Genoa, bene o male, con 6 o 7 punti era lì a giocarsi qualcosa in più, ecco, più o meno le posizioni dell'anno scorso. Sì. Mancano questi 5, 6, 10 gol di un grande centravanti che avrebbero permesso di arrivare lì. Grazie Roberto, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci a tutti. A presto con Roberto Perone, potevo andare avanti con che effetto ti fa, perché ne avevo diversi, che magari giro a voi, ad esempio, che effetto vi fa vedere ancora a oggi, a ora, la Roma prima in classifica, anche se è solo un effetto grafico, nonostante quel plico che appunto Roberto Perone aveva davanti sui numeri impressionanti dell'Inter. Oppure che effetto vi fa sentire De Rossi ieri dichiarare che, come dicevo prima, tifo Lazio, mai me lo sarei aspettato nella vita. E se volete poi ne parliamo. 800 24 00 24, resta il numero verde. Intanto io registro un amico da Trieste, si chiama Frank, che è sempre molto scurrile nei suoi messaggi, ma chissà perché mi è simpatico. Stavolta se la prende con l'Inter, che io ho definito mostruosa Barcellona, e lo ripeto, evidentemente Frank, che pure mi è misteriosamente simpatico, non capisce di calcio grosso modo come Blanche. L'Inter ha giocato, e lo confermo, una partita mostruosa l'altra sera a Barcellona. Perché il calcio oggi è anche applicazione, è anche occupazione di spazi, è anche intelligenza, è anche disciplina, è tutte queste cose. L'Inter l'altra sera ha consegnato la palla al Barcellona, ha detto tenete questa, però fate quello che diciamo noi. Si è messa lì davanti, ha impigliato il Barcellona in quella ragnatela, costringendolo a nessun tiro in porta praticamente, perché la cosa incredibile della partita dell'altra sera sta nel fatto che l'Inter non ha mai rischiato nulla. Questo mi ha colpito più di ogni altra cosa. Se volete naturalmente torniamo a parlarne. Intanto Lorenzo Damas e poi ci fermiamo per il GR. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Sì, la sento bene. Dica. Innanzitutto le faccio complimenti per la trasmissione che seguo sempre con... Grazie. con passione lei, veramente un'attenzione. Non glielo dico tanto per dire, la ringrazio. È la verità. Ora sono sull'autosole, sono come la Juve, no? Sono imbottigliato. Imbottigliato nel traffico. Sì, sono come la Juve, proprio nel caso. Però appunto di Juve, credo che comunque noi juventini, dirò una cosa un po' controcorrente, bisogna stare vicino, bisogna essere juventini in questi momenti, no? Ah, troppo sicuro. Facile. Sicuro. Quindi io ho fiducia sinceramente in Andrea Agnelli, ho fiducia, come diceva lei prima, che comunque verranno fatti investimenti importanti, ma auguro che Benitez sia il Mourinho della Juve. Certamente comunque... è un allenatore di grande personalità, è un allenatore che si sa fare anche col microfono e questo conta. Allenatore di immagine e di carisma, insomma, io credo la scelta giusta. È chiaro che Benitez non è semplicemente un allenatore, è una specie di azienda che si porta dietro osservatori, tutta una rete di contatti e collegamenti. Certamente non viene a Torino soltanto perché la Juventus ha un grande passato. Non sarebbe venuto a Torino se non fosse stato convinto che la Juventus ha anche un grande futuro, perché è uno degli allenatori top del calcio mondiale. Questo credo sia una specie di garanzia per i tifosi juventini, insieme a quella poltrona sulla quale da pochi giorni siede Andrea Agnelli. Sono molto volentieri a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Poi avremo modo e tempo anche di collegarci con la Spagna, sia per il calcio che per il moto mondiale, perché vorrei tornare a parlare di questa doppietta spagnola con Rossi terzo, che si è consumata oggi pomeriggio, mentre il derby spagnolo di finale degli internazionali d'Italia mi risulta è stato interrotto per maltempo dopo, nel primo set, 4 pari tra Nadal e Ferrer. Però adesso naturalmente calcio. Cristian, Gennaro, Claudio, primi ascoltatori in linea. Cristian, buonasera. Sì, buonasera, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Che è sempre bellissima. Volevo fare una considerazione su Atalanta, in quanto sono tifoso. Sì. È inutile parlare dell'arbitraggi passati, presenti, futuri, perché una società come la nostra che cambia 4 allenatori in un anno. Bravo. È condannata alla retrocessione diretta. Bravo, no, e ma poi soprattutto, Cristian, l'Atalanta che mi è molto simpatica, insomma, io ho presente la situazione, no? 0-4, parti 0-4, prime 4 sconfitte. Il primo punto arriva alla quinta giornata, 0-0 in casa col Catania. E poi c'è la sconfitta in casa con il Chievo, e poi c'è... Certo, assumere un allenatore come Gregucci, che non aveva alcune esperienze e risultati... È stato l'errore, è stato il primo errore. Io presumo ci siano due gravi errori. Il primo è che l'Atalanta non tira più fuori i giovani, ed era la sua risorsa... Bravo. Principale. Era un po' un piccolo Barcellona su questo... Bravo. Dell'Italia. E secondo, credo che il dramma della famiglia Ruggeri abbia creato un po' di impasse all'interno della società. Credo che ci sia ancora un problema di riorganizzazione, quindi appellarsi agli arbitri, una società come la nostra non deve mai farlo, dovrebbe vivere del suo lavoro che è sempre stato ottimo. E ci possono stare le retrocessioni, ma la disorganizzazione come quest'anno è un segnale abbastanza preoccupante anche per il futuro, se non si inverte la rotta. Migliore in campo, Cristian. E volevo fare un altro complimenti, grazie, a Callegari, che è un telecronista eccezionale, che sì, è competente. Questi glieli giriamo. Speriamo di vederlo in Rai, visto che è confinato al pagamento. Ma sì, ma credo stia bene lì dov'è. Intanto a noi piace, certo, chiacchierare insieme la domenica su queste frequenze. Cristian da Monza, migliore in campo per il momento. Vediamo, certo, se qualche ascoltatore fa meglio. Gennaro da Firenze, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Salve. Io credo che con questo campionato la Fiorentina sia andato a dieci anni indietro, dal punto di vista, diciamo, delle prospettive, non della sostanza tecnica, sì, che io non sono in grado di giudicare, perché credo che gran parte di questo fallimento sia dovuto al fatto che il mercato di gennaio sia stato condotto con pochissima sapienza. Credo anch'io. E dico che questo è un grande peccato, perché tutta la città di Firenze ha un grande legame di affetto profondo con la società. Gennaro, ci può anche stare la stagione disgraziata. Io credo che questa è certamente una stagione disgraziata, anche se insomma, per una società, per un club, per una tifoseria che vive di emozioni come quella viola, siano impagabili quelle vissute in Europa, anche la rabbia profonda per quello che è successo con il Bayern di Monaco. Certamente la Fiorentina ha pagato in maniera enorme le sue fortune europee e un mercato, dice bene lei, di gennaio non all'altezza che non ha rinforzato la squadra più che altro. Io voglio far sentire insieme a voi Bortolo Muti, allenatore dell'Atalanta, invece con Sky. Un po' una reazione del ragazzo che non si è sentito tutelato per il rigore dato e poi non è poi ritirato perché la palla era uscita. E magari in quel caso lì vedi, guardando lui si sente che è stato penalizzato oltre, ecco. Perché la vostra linea però, difensiva. Ecco, però ti devo dire che prima c'è l'espulsione di Mutarelli ed è questa la cosa che ci fa molto arrabbiare, perché Mutarelli era stato già ammonito e Tagliavento gli aveva detto non permettervi di far certi falli, la prossima sei fuori. Mutarelli ha fatto un'entrata veramente e non è stato sanzionato. Cioè io dico sicuramente episodi che potevano condizionare la gara, gli episodi negativi li abbiamo subiti tutti noi. Voi lo sentite anche arrabbiarsi con il quarto uomo dicendo se non aveste fischiato rigore non ci sarebbe stata la reazione poi di Pellegrino, certo che comunque l'arbitro l'ha offeso. Come? Non lo so cosa gli ha detto onestamente però tu quando ti giochi la partita della vita e vedi che alla prima trattenuta, al primo piccolo episodio ti viene concesso un rigore contro, anche quello ti fa un po' incazzare, arrabbiare, perché non c'è mai stata un'occasione da gol da parte del Bologna, non c'è mai stata una situazione particolarmente pericolosa. Al 45esimo c'è una trattenuta che ce ne sono state anche dall'altra parte e potevano essere sanzionate in quella maniera. Cioè ti vedi dare un rigore subito così al primo episodio, probabilmente il ragazzo, anche perché era un po' che non giocava e ci teneva molto a... ha un po' così, non dico perso la testa, però non si è controllato. Sono cose purtroppo non devono succedere in questo momento ed è successo nella partita decisiva per noi. Ed è veramente un grande peccato perché non volevamo giocarla alla pari con gli altri e lo stavamo facendo, così non ci è stato permesso per gli altri 50 minuti. Io devo dirvi che in tutta onestà Mutti lo capisco abbastanza. Vi devo dire, Claudio da Brescia, buonasera. Claudio? Sì, buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Sul discorso della semifinale di Champions, sì. Così, sull'Inter non sono d'accordo che non abbia rischiato, perché comunque se si è visto poi che sul fallo di mano non c'era e il gol c'era. Certo, sì. Forse no, Claudio, però quello che io dico è che giochi contro il Barcellona, che è la più forte squadra del mondo. Alla fine, in una partita totalmente difensiva, Julio César mi ha fatto quella parata su Messi nel primo tempo e poco altro. Dico questo, cioè che l'Inter non ha concesso nulla al Barcellona se non il possesso del pallone. Questo dico io. Quello sì, certamente sì. Dopo, certo, se non ci fosse stata l'espulsione, che secondo me comunque non c'era, anche se io non sono interista, comunque effettivamente non c'era, la partita forse non c'era, più, non c'era, ecco. Mattia Gomotto è stato un fesso e quelli del Barcellona lo sapevano perfettamente. Assolutamente sì, lo sapevano perfettamente. Di nervosismo sì, non doveva fare quella non cosa. Non devi rischiare, è una cosa da principiante, ha ragione lei, non dovevi rischiare quel tipo di intervento, ma quelli del Barcellona mica sono nati ieri, sono andati lì apposta. Sapendo che lui era già ammonito, l'espulsione non c'era ma il secondo giallo c'era, quindi se non è zuppe pan bagnato, quindi andava fuori ugualmente. Ha fatto un grave errore Thiago Motta e l'ha pagato con l'espulsione. Molto caro. Prego. La finale come la vede con questo Bayern? Inizialmente sembrava che ci avesse la Fiorentina, poi invece... Lei sa meglio di me che le finali si vedono e poi si parla dopo, perché è molto difficile. Bayern è una squadra che ha grandissime esperienze internazionali, così come il suo allenatore. È chiaro che l'Inter ci va vestendosi da favorita, perché non può non essere così, no? Hai buttato fuori il Chelsea, il Barcellona, sei la squadra del momento. Il Bayern Monaco è partito malissimo in questa stagione, non solo in Europa ma anche in campionato. Bar poteva finire fuori anche il primo girone con la Juventus, poteva finire fuori con la Fiorentina senza fare un plissé. Le coppe europee sono queste, sì, non si arrivi in finale senza avere degli episodi favorevoli, perché è impossibile, sono molto aleatorie. Adesso è in finale e se la gioca tutta quanta. Va notato anche che ha due giocatori di classe, due fuori classe, il Bayern Monaco, uno non c'è. Ribéry, che come sapete è squalificato, resta l'altro, Arjen Robben, che può risolvere una partita da solo. È chiaro che l'Inter è favorita, però non è a Steaua Bucarest questo Bayern Monaco, questo è certo. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo insieme. Strade in diretta. Traffico intenso verso le città, sulla rete autostradale, le piogge sulle regioni del centro-nord rallentano gli spostamenti. Sull'autosole per un incidente ora risolto ci sono 7 km di coda tra Orvieto e Attiliano in direzione Napoli. Ancora in A1 alle porte di Firenze, code a tratti in entrambe le direzioni, sempre in Toscana, code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Lavoria e tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa verso Firenze. Situazione difficile anche sulla 11 Firenze-Mare, code a tratti in direzione Firenze a partire dalla 12 sino a Pistoia. Traffico rallentato anche su tutte le autostrade che convergono sulla capitale, lunghe code sull'autosole tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, sulla diramazione Roma Sud code a partire da Torre Nova, sulla 24 verso Roma rallentamenti per un incidente tra Vicovaro Mandera e Castel Madama, in città disagi in piazzale Marisciallo verso lo stadio olimpico per l'afflusso dei tifosi per l'incontro di calcio Lazio-Inter in programma alle 20.45 e per la finale dell'internazionale di tennis al Foro Italico. In Umbria sul raccordo Viterbo-Terni 5 km di code in entrambe le direzioni per rimettersi sull'autosole, code rallentamente alle porte di Genova sia sulla 10 di Fiori che sulla 12 Genova-Livorno, verso Bologna code a tratti sulla 14 Adriatica tra Pesaro e Cattolica e tra Cesena Nord e Castello e San Pietro, sulla 15 della Cisa 4 km di coda prima del raccordo per l'autosole, 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'autosole verso quest'ultima, code a tratti sul tratto Veneto della 4 tra il passante di Mestre e Padova Est verso Brescia e poi sulla 4 Milano-Brescia tra Brescia e Bergamo in direzione Milano. 4 km di coda sulla 18 Messina-Catania in entrata a Catania per il traffico intenso. Per il momento è tutto, più tardi. Promo 24. Volkswagen esprime il meglio della sua tecnologia progettando e realizzando la nuova Touareg, con le nuove motorizzazioni 4 e 2 V8 TDI, 3000 V6 TDI Blue Motion Technology e l'innovativo 3000 TSI Hybrid con una potenza complessiva di 380 cavalli ed un consumo di soli 8,2 litri per 100 km nel ciclo combinato. Con le sue linee dinamiche e filanti, uno stile elegante ma deciso, i dettagli curati nei minimi particolari, il cambio Tiptronic a 8 rapporti di serie e ancora più spazio per i passeggeri, la nuova Touareg eleva ancora una volta gli standard della sua categoria. Nuova Touareg, l'unica ibrida che è anche una Touareg, ti aspetta nelle concessionarie Volkswagen. A tempo di sport. Intanto è ripreso il derby spagnolo di finale degli internazionali d'Italia. Nadal ha vinto il primo set 7-5. Adesso nel primo gioco del secondo set è al servizio Ferrer. Intanto Trento si conferma regina d'Europa, ha vinto la Champions League di pallavolo per il secondo anno consecutivo battendo 3-0 Mosca. Intanto, a proposito di Spagna, eccoli Filippo Maria Ricci. Buonasera Filippo. Buonasera. Cos'è questo rumore? Dove sei? Da me. Non è che sono in discoteca? Dove sei? A Bernabeu. Lo sapevo io. Bernabeu per vedere se il Real riesce a rispondere al Barça che ha rovesciato tutta la sua rabbia addosso al povero Valladolid. Villarreal, scusa. Esatto. Con Messi che torna al gol, Ibra che torna in panca e il Barcellona che torna alla vittoria. Così adesso mancano tre partite qua, stasera per il Real Madrid non dovrebbero esserci grandi problemi con lo Sassuna, poi un turno infrasettimanale e due weekend con una trasferta rischiosa del Barcellona a Siviglia, così come massimo pericolo per il titolo del Barcellona. Filippo, è in corso una piccola diatriba tra me e gli ascoltatori. Io ho detto che l'Inter l'altra sera non ha rischiato nulla con il Barcellona, se contiamo che è il Barcellona. No, io sono assolutamente d'accordo con te. Tre occasioni da rete, un gol, una bella parata, un tiro fuori. Considerando che in tutte le interviste che faccio, quando si parla di gioco ai giocatori sia del Madrid che del Barça, mi dicono sì, perché poi il Barça crea 15-16 occasioni a partita, 20. L'aveva detto anche Busquets alla vigilia, l'aveva detto Guardiola. ne hanno create tre, mi sembra che vada benissimo. Sì, va benissimo di sicuro, nonostante ascoltatori che scrivono Barcellona comunque ha fatto due gol ed è vero, uno annullato, poi l'elenco delle palle gol avute da Barcellona, ma è poca roba se contiamo che era il Barcellona, che era il Camp Nou. A proposito di Camp Nou, si è fatto un gran parlare, secondo me è eccessivo, Filippo, ma tu vivi quella realtà molto meglio di me, molto più da vicino. Parlare eccessivo della cornice che ha accompagnato la partita dell'altra sera. Le cose che più hanno fatto discutere in Italia, guarda, sono state l'atteggiamento del Barcellona, della gente del Barcellona, e la telecronaca di Caressa. Mi sembrano dettagli abbastanza marginali rispetto al quadro. Beh, io ero seduto sotto Caressa e devo dire che lì per lì mi divertivo abbastanza. Quindi insomma, questo non lo so, io poi non so, vivo in Spagna, non le sento mai, forse era un po' di saudaggi, sì. Però questo questa è la mia opinione. Sul resto invece, dove forse posso opinare di più, è che si sono scavati la fossa con le proprie mani. Vero, perché lo dicevamo domenica scorsa. Con lo Caret, ti presenti con una maglietta dicendo che dobbiamo rimontare e che la gente deve venire allo stadio, quando? Uno, tutti lo sanno che devi rimontare. Due, lo stadio è già pieno perché è sold out. Tre, sicuramente la gente fa il tifo per te, ma cosa stai facendo? Certo, e Mourinho l'ha detto subito, grazie a quella mente illuminata che ha avuto la pensata della maglietta. Chi è venuta st'idea della maglietta? Tu lo sai? Me l'hanno sempre nascosto, si parla del club. Ah, si parla del club Barcellona. Senti Filippo, per chiudere, poi ti lascio al Real Madrid e a questo testa a testa, secondo me grosso modo similare a quello italiano, perché credo che il Barça vincerà questa Liga, vincerà questo titolo. Ieri ho sentito Bronzetti, che qualcosa sa, dire che il Barcellona non ha fatto un'offerta per De Rossi, 50 milioni di cui si è parlato, vabbè, ma questo mi importa poco. Dire che il Barcellona cerca tre difensori, un laterale, ma questo mi importa abbastanza poco. Diventare molto imbarazzato ad una domanda su Mourinho invece. Sì, ovviamente parlare del Real Madrid, non del, esatto, Barcellona. Del Real naturalmente. io ero con Bronzetti qua giovedì. Sì, posso diciamo confermare l'imbarazzo. Probabilmente sbagliando qui cambieranno ancora allenatore. Sì. E allora se cambiano allenatore non è che ci sono molti molti persone disponibili. Mourinho teoricamente non è disponibile, però se poi a un certo punto Real Madrid insiste, forse qualcuno si convincerà. Non è disponibile, ma lo può diventare. Buon lavoro Filippo. Grazie, ti leggiamo domani. Grazie. Scusate per la musica, non l'ho messa io. Grazie a Filippo Maria Ricci dal Bernabeu. Io invece torno a parlare più prosaicamente con gli ascoltatori, mi fa molto piacere. 800 24 00 24, il numero verde. Mirko, messaggio: la mia idea è che Mourinho a fine stagione, sia in caso di tripletta sia in caso di zero titoli, la vedo dura, se ne andrà e forse verrà anche rimpianto da chi lo ha contestato. Un sostituto è difficile anche solo da immaginare, ma anche se impossibile mi piacerebbe molto Leonardo. Lei chi prenderebbe? Domanda Mirko. Non so, non sono così convinto, ripeto, l'ho detto molte volte e probabilmente mi sbaglio, non sono così convinto che Mourinho resti. Un sostituto, chi al posto di Mourinho? Guardiola? Cosa ne dite? Nicola da Palermo, buonasera. Pronto, buonasera. Io sono il tifoso interista. Io reputo che da questa sera l'Inter non ha una sola finale, ne ha cinque. Sì, questo l'hanno detto loro stessi, no? Negli spogliatoi del Bernabeu. E sono cinque partite, tutte decisive. La maggior ragione questa di stasera, che la vedo difficile. Perché la Lazio in teoria, ho visto la classifica, deve andare a Livorno, già retrocesso, e deve ricevere l'Udinese all'ultima giornata, già salva. Sì, dunque. Però c'è il problema che insomma, Lazio e Roma ci siamo capiti. E dunque stasera non dovrebbe essere difficilissimo. Ho detto che questa sera è decisiva all'80%. Sì. Sì, sì. Poi volevo sapere da lei cosa ne pensava fra Balotelli e Mourinho, chi resta dei due al 100%, se tutte e due o non resta nessuno dei due, e che come la pensa, insomma, le partite sono così, è inutile dire come sono col Bayern, perché sono tutte partite... Col Bayern è una finale di Coppa dei Campioni. è una finale di Coppa dei Campioni. Beh, la prima parte mi sembrava da ufficio stampa dell'Inter, no? Cinque finali, sì, cinque finali in teoria, poi nella seconda un po' meno, perché insomma, ha elencato le ragioni per cui questa sera con la Lazio potrebbe essere anche una finale non difficilissima. Quanto a Mourinho e Balotelli, non resteranno nella stessa squadra l'anno prossimo, magari andranno via tutte e due, questo non lo so. Certamente vale quello che ho detto ieri, credo che per Balotelli, che reputo un ragazzo intelligente, quella del Camp Nou dell'altra sera, l'ennesima lezione impartita da due superstar internazionali come Eto'o e Milito, non possa non aver lasciato il segno. Certi atteggiamenti da vecchia Inter non hanno senso in questa squadra, io credo. Giovanni da Milano, buonasera. Giovanni? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, io vorrei continuare a riprendere un po' l'argomento Thiago Motta che lei ha trattato prima. Sì. E io credo che giocatori come Thiago Motta, che giocano in una squadra come l'Inter, che sempre, perché io credo che statisticamente se si dovesse fare un controllo, non c'è partita che non si prenda un giallo e poi la prima volta che prende anche il rosso. Sì, sì. Io credo che sarebbe opportuno che la società, siccome sono giocatori importanti che poi coinvolgono tutta la squadra in situazioni e creano grandi criticità, sarebbe bene che imponesse a tutti i giocatori, perché c'è anche Montari che è abbastanza abbonato, il cartellino giallo, di appioppare una multa, ma di quale sarate? Ma serve a poco, Giovanni, ho l'impressione. Serve a poco perché sono giocatori che hanno questo tipo di caratteristiche, Sissoko, Santa Croce, ce ne sono diversi che conosciamo bene e che hanno questo tipo di difetto. Gli avversari a questo livello lo sanno perfettamente e dunque al massimo appunto livello di sofisticazione anche tattico sanno perfettamente chi andare a cercare, chi andare a provocare quando è il momento. Grande squadre, scusi. Non si levano con le multe questi atteggiamenti. Sono dei difetti che i giocatori si portano dietro ed è anche molto difficile correggere, soprattutto se non sono più ragazzini come Thiago Motta. È un giocatore dal cartellino facile, lo stesso Felipe Melo, insomma ce n'è diversi di giocatori che hanno questo atteggiamento. Piuttosto bisognerebbe tenerne conto nel momento in cui spendi tanti soldi per comprarli, perché questo vizio non lo togli e non lo levi, io credo. No, certamente non con le contravvenzioni. Raffaele da Napoli, buonasera. Mi sente? Non so, proviamo. Senta, volevo chiedere una cosa. Prego. Io sono tipo giallo rosso da 30 anni circa, quindi si figuri come stasera vivrò quella partita che si gioca all'Olimpico tra Lazio e Inter. Volevo sapere, secondo lei, ma è possibile insomma che si giochi una partita regolare, che la Lazio si impegni e possa almeno pareggiare? Perché poi ho fatto un calcolo, se l'Inter non vince stasera e diciamo le altre due partite vincono tutte e due, finiscono a 80 punti e la Roma vince. Scudetto, perché cioè lei crede nella buona fede della Lazio che si impegni e quindi almeno un pareggio e non faccia, come si dice a Roma dei tifosi, vincere tranquillamente l'Inter, perché sarebbe veramente triste questo. E poi lei ci crede? Lei ci crede? Mi dica se lei ci crede. Senta, perché è facile domandarlo a me, mi lascio tutte so, le so, mi dica lei. Io purtroppo, conoscendo i tifosi della Lazio e l'influenza che hanno sulla società, ho paura che la spalla, però mi fido dell'allenatore che ha detto, il vice allenatore che ha detto è solo fantacalcio, quindi noi andremo in campo e giocheremo, anche perché la Lazio comunque si deve ancora salvare, no? Non ha la certezza matematica. Molto teoricamente si deve ancora salvare, perché di fatto è salva per i mille motivi che dicevamo sopra, quindi lei ha risposto alla sua domanda ed è un'opinione che condivido, nel senso che mi sembra molto, insomma, io voglio ancora vederla la Lazio che fa vincere uno scudetto alla Roma, la voglio vedere, dopo che l'avrò vista mi ricrederò. Per il momento faccio un po' fatica a crederci, ma non solo perché le questioni di campanile, poi sappiamo bene che da un lato esiste il Lecce, da un lato esiste il Perugia, esiste il 5 maggio, esistono tutte queste cose, dall'altro esistono una squadra che non lascia nulla per strada contro un'altra che ha motivazioni molto inferiori, lasciando stare, ripeto, un campanile che a Roma fa pure tutta la differenza del mondo, quindi ci fermiamo un attimo, poi se volete siamo ancora qui per mezz'ora, 800 24 0024 il numero verde. Un'azienda competitiva deve sapersi rinnovare costantemente. Come può trasformare l'innovazione sui non clienti in nuovi modelli di business? Lunedì 17 e martedì 18 maggio, in occasione del Global Business Summit 2010, gli esperti migliori di Harvard Business School e Il Sole 24 Ore incontrano l'eccellenza del management internazionale per rispondere alle domande che l'economia si pone. Anche alle tue. Anche alle tue. Invia la tua domanda per il futuro all'indirizzo gbs@radio24.it e potrai avere la possibilità di porla personalmente durante il summit. Per informazioni e iscrizioni visita ilsole24ore.com/gbs2010 o chiama il servizio clienti all'199 43 00 43. Ho appena aperto un'azienda. Mail, telefonate. Chi mi offre una soluzione su misura? Fastweb Soluzione Impresa. Centralino, PC, internet, telefonia fissa e mobile come tu li vuoi. Per tutte le tue esigenze di comunicazione scegli un partner vincente. fastwebsoluzioneimpresa.it o 192 192. E quello era il vecchio cuore della raffineria. Tu sei poi riuscita a cambiare i macchinari? Sì, grazie ai nuovi affari. A proposito, è migliorata la situazione? Ma sto cercando dei clienti, ma di cui potermi fidare? Io mi sono rivolta ad Euler Hermes SIAC. Il suo servizio di consulenza sull'affidabilità del cliente è il modo migliore per mettersi al sicuro dai mancati pagamenti. Euler Hermes SIAC, gruppo Allianz, è il leader in Italia per la valutazione del rischio, assicurazione e recupero credito. Per info 888 7700 o eulerhermes.it. Scorte introvabili? Inefficienze? Alti costi di movimentazione? Scaffalature non certificate? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block, membro certificato ACAI CISI, il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Modulblock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino. Provare per crescere. Se per te questo è vento di scirocco, questa è la bora. E questa è una cascata. Vuol dire che a casa hai energia tutto compreso green. Scegli la tua taglia di elettricità. Se la rispetti sempre, ne avrai due in premio. Ogni anno. Il premio sarà riconosciuto dopo un anno di fornitura. Chiama l'800-900-860. Enel, l'energia che ti ascolta. A tempo di sport. Resta la frontiera, oggi Pedrosa domina la prima parte di gara, poi siccome Jorge Lorenzo è un pilota di altro livello, almeno agonistico, è lui a vincere il derby spagnolo, secondo è appunto Camomillo Pedrosa, terzo Valentino Rossi, ancora dolorante. Sentiamo Rossi e poi sentiremo anche Jorge Lorenzo. Non è stata nessuna tattica, anzi, per stare lì oggi ho rischiato molto di più di tante altre volte nella mia carriera quando ho vinto, perché sapevamo che non era la nostra gara e quindi sapevo che non mi potevo permettere nessun tipo di errore. Ho cercato di sfruttare al massimo tutto, la partenza, riuscivo a guidare abbastanza bene quando avevo le gomme nuove, ma poi la mia moto cominciava a scivolare troppo e sapevo che negli ultimi 10 giri avrei avuto qualche problema anche con la spalla. E quindi ho cercato di stare lì aggrappato con i denti. Sicuramente oggi non era la gara da fare faville, e quindi questo essere sul podio, aver portato a casa 16 punti è importante. Dietro Rossi c'è Dovizioso, c'è Nicky Hayden, c'è Stoner, e Lorenzo supera anche la concorrenza nella classifica mondiale piloti e poi fa un bagno vestito in uno stagno che c'è lì sul circuito di Jerez. Un'esultanza così non l'avevamo mai vista, a dirvi la verità. Con il peso che si porta addosso i piloti, un po' di paura l'abbiamo avuta. Probabilmente c'era l'acqua bassa. Sentiamo Lorenzo. Hai visto che c'era un lago nella pista, un lago artificiale? E ho pensato che si vinceva con questa gara tanto importante, è come quando si vince un grande titolo, no? Nel calcio o nel basket, che loro se vanno a bagnare, no? Al lago, pues, lo stesso ho fatto io. Sono molto agradecido con la gente che sta con me, ma non teniamo che infravalorare per niente a Valentino, perché in questa gara teneva molto problema. Lui non è andato tanto forte, ma nella prossima e le altre Valentino starà lottando per vincere. Sì, però Mario Poltrone non è che si buttano con il casco da tutti gli stivali quando festeggiano gli scudetti nelle fontane. Beh, senti, comunque è stata una gara veramente molto interessante e coinvolgente in parecchie fasi, che lascia ben sperare per il resto del campionato e che pone qualche problema sicuramente a Valentino, perché io non credo che i suoi problemi fossero solo quelli della spalla, o almeno lui li ha smentiti. Evidentemente nella messa a punto della moto è riuscito meno bene che non Lorenzo, che ha fatto una gara per la verità eccezionale, perché questo suo crescendo mi faceva sempre pensare, beh, però dati precedenti fra un po' sbaglia, e invece chi ha sbagliato la gara precedente è stato Stoner, il quale oggi purtroppo si è giocato molte chance per il mondiale, perché ha una classifica veramente negativa, nel senso che ha solo 11 punti contro i 45 di Lorenzo, che ha scavalcato Rossi, che ha 41. Quindi il pacchetto di mischia in testa è diventato, direi, più consistente sia per la gara di Lorenzo sia per l'ottima gara fatta da un Pedrosa, direi, che ha dimostrato una grinta che altre volte gli era mancata. Sì. E forse avrebbe potuto anche vincere se non si fosse lasciato prendere la mano dal desiderio di resistere a Lorenzo nell'ultimo attacco. Avesse staccato un po' prima, probabilmente riusciva ancora, avendo la moto un po' più veloce, a tenere la testa, però comunque la corsa di Lorenzo è stata veramente eccezionale. Sì, certo, Mario. Pedrosa si è lamentato per tutto il weekend, anche subito dopo aver stampato la position, che la moto non andava. Francamente non avrei scommesso un euro su una sua vittoria con Lorenzo attaccato agli scarichi. Sono due piloti diversi come caratteristiche, no? Dicevo prima di quelli col cartellino giallo facile. Pedrosa non è bravo a sopportare la pressione di uno più grintoso. Sì, soprattutto nel caso specifico, poi una gara spagnola, l'avversario spagnolo, quindi diciamo il suo grande avversario, quello che Valentino in Italia tutto sommato ancora non ha, perché Dovizioso è andato bene, ma insomma diciamo a livello di Valentino non c'è nessuno da noi, quindi sicuramente si è spremuto al massimo. Adesso si tratta di vedere se sono tutti in grado di continuare. Tu dici Pedrosa non può essere un numero uno, sì, è vero, però può essere un protagonista che può determinare determinate situazioni nella classifica di campionato, che tutto sommato potrebbero andare a vantaggio di Rossi, perché è chiaro che questo forte antagonismo di Lorenzo con Pedrosa e ovviamente anche con Valentino, suo compagno avversario di squadra, porterà senza dubbio a delle gare molto più combattute. È curioso notare che oggi comunque i numeri due sono stati davanti ai numeri uno, perché Lorenzo è stato davanti a Valentino e Aidan è stato davanti a Stoner, e in questo caso bisogna dire che ci sarà molto lavoro da fare alla Ducati per mettere la moto appunto, in condizioni appunto. Perché diciamo, questo per mi sembra andare come in precedenza. Mi sembra un argomento, mi sembra una Ducati che non ha approcciato benissimo questo mondiale, al di là di Stoner che oggi l'ha presa anche da Aidan. Però Aidan, diciamo, il problema secondo me è che col cambiamento della direzione sportiva e Vittoriano Guareschi ha preso le redini in mano, ora Guareschi è un eccellente collaudatore, ma probabilmente ha fatto una moto che si dice più guidabile, e che è più guidabile per Aidan un po' meno per Stoner, perché Stoner, guarda caso, ha il numero 27 come Gilles Villeneuve, e cioè sono quei piloti che, come si suol dire, buttano il cuore oltre l'ostacolo, cioè tirano al massimo, se gli va bene non cadono, vincono, se invece non gli va bene, ecco, nel caso di Stoner io credo che abbia bisogno di rimettere un po' a posto la moto secondo il suo stile di guida, perché non è uno che riesce ad adattarsi facilmente. Del resto, passando sempre un attimo al discorso della Formula 1, Schumacher si sta facendo rifare la macchina perché non riesce assolutamente a guidare con una macchina sottostressante come sono le attuali Formula 1, ha bisogno di una macchina che gli vada via di dietro, quindi ecco, anche Stoner ha bisogno di una moto che risponde in un certo modo. E del resto io vedevo che i box e i tecnici delle sospensioni hanno lavorato moltissimo, quindi direi che oggi il punto critico un po' per tutti, sia per Valentino sia per Stoner, è quello di mettere a posto il telaio secondo le loro esigenze. Mario, grazie, ci sentiamo nel prossimo weekend. Arrivederci, buonasera a tutti. Grazie davvero Mario Poltronieri. Allora, Marcello Lippi convoca 29 giocatori azzurri per lo stage di 2 giorni alla Borghesiana di Roma e non c'è spazio per novità dell'ultima ora. Non fanno parte di questo gruppo che, sarete d'accordo con me, è estremamente indicativo, no, in prospettiva mondiale. Ebbene, non fanno parte di questo gruppo né Amauri, ora italiano quindi convocabile, e neanche Miccoli, protagonista del campionato e da più parti invocato come possibile novità per i mondiali. In attacco ci sono sia Borriello che Pazzini. Ecco la lista dei 29, ripeto, fate due conti, mi sembra indicativa. Portieri, Buffon, De Santis, Marchetti e Sirigu. Facciamo i primi 3 per i mondiali. Difensori, Bocchetti, Bonucci, Cannavaro, Fabio naturalmente, Cassani, Chiellini, Criscito, Grosso, Le Grottaglie, Maggio, Zambrotta. Centrocampisti, Camoranesi, Candreva, Cossu, Gattuso, Marchisio, Montolivo, Palombo, Pepe, Pirlo. Attaccanti, Borriello, Di Natale, Gilardino, Iaquinta, Pazzini, Quagliarella. Il CT non ha tenuto conto dei giocatori di Inter e Roma impegnate mercoledì nella finale di Coppa Italia. Quindi lista dei 29 senza quelli di Inter e Roma. Come la vedete? Alessandro da Cuneo, Giuseppe da Roma, Salvatore da Napoli, che penso che in ordine di prenotazione sia il primo. Salvatore, buonasera. Buonasera. Volevo dire che secondo me Miccoli merita la nazionale, anche se non ha un fisico come Luca Toni, però è un giocatore continuo, ha il senso del gol e penso che in nazionale, anche in banchina, potrebbe fare comodo. Ha fatto una grande stagione Miccoli, è anche vero che in questa squadra non ha mai giocato, quindi io in tutta onestà non mi aspetto Miccoli in nazionale ai mondiali, anche se alla luce del campionato che ha fatto, di ciò che sta facendo, trascinando il Palermo in Champions League quasi, se guardiamo il campionato certamente la meriterebbe, però conoscendo Lippi, insomma, se avesse fatto questa convocazione a novembre, dicembre, gennaio, in inverno, allora certamente aveva una sua legittimità la candidatura di Miccoli. Così secondo me no, nemmeno come Jolly, perché ripeto, conoscendo bene Marcello Lippi, i giocatori saranno questi, si andrà molto lontano da questi nomi, insomma, dal mio punto di vista, io l'ho sempre detto, come caratteristiche anche tecniche, poi qui si apre tutto un lunghissimo capitolo, come caratteristiche anche tecniche io ai mondiali non andrei senza Balotelli, come caratteristiche tecniche del giocatore, come anche tattiche, no? Giocatore in grado di entrare 10 minuti, un quarto d'ora, un tempo, quello che volete, spaccare una partita. Un giocatore così è adatto per un mondiale, non andrà ai mondiali, non ha mai fatto parte di questa squadra. Ripeto l'elenco dei convocati per questo stage: attaccanti, Borriello, Di Natale, Gilardino, Iaquinta, Pazzini, Quagliarella. Secondo me saranno questi o quasi, insomma, i giocatori che andranno ai mondiali. Ci fermiamo per il traffico, poi Alessandro da Cuneo e Giuseppe da Roma. Pubblicità. Il conto di che banca? Il conto di Che Banca ha un canone di 1 euro al mese, senza sorprese. Per i fogli informativi 848-444-488 o chebanca.it. Che Banca, gruppo Mediobanca. Strade in diretta. Verso Firenze, code a tratti sull'autosole da Valdarno, sulla Firenze Pisa-Livorno, code tra Vicarello e Lavoria e tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Situazione difficile anche sulla 11 Firenze Mare, dove in direzione Firenze si incontra coda a tratti tra la 12 Genova-Rosignano e Pistoia. Stesso scenario su tutte le autostrade che convergono sulla capitale, lunghe code sull'autosole tra Nagni e la diramazione Roma Sud. 3 km di coda sulla diramazione Roma Sud per rimettersi sul raccordo anulare. Sulla 24, code in entrata alla barriera di Roma Est, code anche in città, disagi in Piazzale Maresciallo verso lo Stadio Olimpico per l'incontro di calcio Lazio-Inter, ma anche per la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico. In Umbria sul raccordo Viterbo-Terni, 5 km di code in entrambe le direzioni per rimettersi sull'autosole. Code rallentamenti alle porte di Genova, sia sulla 10 dei Fiori che sulla 12 Genova-Livorno. In direzione Bologna, code a tratti sulla 14 Adriatica tra Pesaro e Cattolica e tra Cesena Nord e Castello e San Pietro. A Bologna, code in tangenziale per un incidente tra San Donato e Bologna Centro in direzione dell'Autosole. Sulla 15 della Cisa, 4 km di coda prima del raccordo per l'Autosole. Sulla 22 del Brennero, code di 2 km tra Carpi e l'Autosole verso quest'ultima. Code a tratti sul tratto veneto della 4 tra il passante di Mestre e Padova Est verso Brescia e poi sulla 4 Milano-Brescia tra Brescia e Bergamo in direzione Milano. Verso Catania città, 4 km di coda sulla 18 Messina-Catania per traffico intenso. Anche sulla 30 Caserta-Salerno il traffico intenso, ci sono code verso Salerno alla barriera di Salerno Mercato San Severino. Per il momento è tutto, ci risentiamo tra circa mezz'ora. A tempo di sport. Dunque, ho letto la lista dei 29 convocati per uno stage. Lippi ha precisato, al netto dei giocatori di Roma e Inter che giocheranno la Coppa Italia, giocatori della Roma, chi possono essere quelli convocabili? De Rossi naturalmente, forse Perrotta, forse Toni, forse Totti, però lì non so come stia la situazione. Dell'Inter forse nessuno, perché insomma di Thiago Motta si è già detto, nonostante sia convocabile non verrà convocato. Santon è fuori dai giochi, ha problemi fisici che durano tutta la stagione, quindi anche per rispondere ad un ascoltatore via SMS credo che sia fuori dai giochi per questo mondiale, e non ce n'è altri se non Balotelli per l'appunto. Mi ha raggiunto Dario Ricci, ciao Dario. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Tra poco cominciamo a guardare il terz'ultimo giro di pista del campionato di basket. Prima però Alessandro da Cuneo, Giuseppe da Roma, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Io appunto parlo della Juventus, io sono dispiaciuto per Miccoli perché non sarà convocato, ma mi sento di dire che sta molto bene alla Juventus vista come è messa quest'anno. Purtroppo l'hanno ceduto. E volevo dire, mi chiedevo il prossimo anno che Juventus ci potrà essere, malgrado un Benitez in arrivo, dove li prendiamo i giocatori veramente che possono fare il salto di qualità? Perché penso che i migliori siano piazzati. E beh, insomma, in giro ci vogliono tanti soldi, questo è indubbio. Cioè, l'arrivo di Benitez, come dicevo prima, non è semplicemente l'arrivo di un allenatore, è l'arrivo di un allenatore che ha una garanzia. Dal punto di vista degli investimenti che la società è disposta a fare, perché Benitez non viene ad allenare la Juventus semplicemente per il suo passato, ma ripeto, perché è convinto che la Juventus abbia un futuro. Altra garanzia sta nell'insediamento di uno della famiglia, della proprietà, come Andrea Agnelli. Mi sembrano le due garanzie da cui ripartire per costruire da zero sul serio, perché questa stagione non ha lasciato nulla di utilizzabile per la prossima. È chiaro che giocatori pagati molto sul mercato, in particolare Felipe Melediego, non siano commercializzabili attualmente se non rimettendoci un sacco di quattrini, cosa che la Juventus non credo abbia intenzione di fare. È una squadra molto anziana e quindi suppongo che i più datati, che Cannavaro Grosso, faranno i mondiali naturalmente, chiuderanno qui la loro carriera juventina. E poi quali giocatori non lo so, certamente le due mosse di qui sopra mi lasciano pensare che la proprietà abbia intenzione di investire molto nella ricostruzione del club, magari mi sbaglio. Giuseppe da Roma, buonasera. Sì, ciao a tutti, stiamo ciao. Andando a vedere la partita con il gruppo degli amici laziali. Qui il clima è veramente strano, Sì, è piacevole per noi perché una trasferta così, accolti così bene, è difficile, penso, di viverla. Allora, fammi capire. Molto sia a merito dei pollici di Totti. Io penso che se oggi Totti, penso quel gesto dal punto di vista del clima ambientale che c'è, penso non lo rifarebbe mai, su questo sì, ma quella insomma non l'avesse fatto non sarebbe cambiato granché, qui, no? Qui proprio ce l'hanno proprio in quel gesto, la segnate proprio, io con i miei amici qua, cioè ce l'hanno proprio per quel gesto, perché l'hanno visto meglio del purgato, meglio di l'ha proprio stizziti. È difficile pensare che il campanile non possa contare nella partita di stasera. È veramente una partita strana, questo te lo posso garantire. Io da tifoso Inter, una cosa del genere, non ero al 5 maggio di tanti anni fa, quest'anno dove il clima penso non fosse molto diverso. Ma sai, non c'era la Roma, c'era la Juve di mezzo, quindi sì, era un po'... mio padre, per esempio, non si è mai perso una partita dell'Inter, mi ha raccontato che comunque ti favano per noi, però nonostante il fatto che Pobolski alla fine contratto andava via ed era sembrava l'unico che si impegnasse... Sì, però quella partita non la vinse la Lazio, non la vinse Pobolski, la perse l'Inter, no? Io non credo, io onestamente non credo che... non vedo in quest'Inter quella possibilità. Ma io mi immagino per il giocatore a Lazio... che vince, fa più vincere di fatto, oggi se l'Inter non vince di fatto fa vincere lo scudetto alla Roma, una questione divertente. Sì, no, ma io non ce la vedo in tutta onestà perché siamo in Italia, ma soprattutto perché siamo a Roma e sappiamo bene lì quanto conti un derby, quanto conti il campanile, quanto contino certe cose. Dunque, onestamente, detto male alla Roma, in questo caso il calendario, perché io nonostante De Rossi che dice tiforò Lazio, e da De Rossi non me lo sarei mai aspettato nemmeno in questa situazione, Ranieri non ce l'ha fatta a dirlo ieri sera, a dire forza Lazio, e insomma Roma è Roma, no? La rivalità è quel campanile, penso possano pesare. Magari non lo so, vediamo la partita, io però devo ancora vederla, insomma la Lazio che batte l'Inter stasera, che semplicemente pareggia facendo vincere lo scudetto alla Roma, sarebbe una specie di rivoluzione. Giuseppe, buona serata all'Olimpico. Dario, diamo un'occhiata invece ai risultati di basket. Sì, siamo intorno alla metà del secondo periodo di gioco su tutti i campi. Intanto nell'anticipo di mezzogiorno Siena travolge Caserta in trasferta 57-98, e poi Angelico Biella, Armani Jeans Milano 32-22, Vanoli Cremona, Banca Terca Steramo 40-33, Benetton Treviso, Carife Ferrara 38-29, Sigma Coatings Montegranaro, Air Avellino 38-36. E anche qui siamo quasi al tempo dei verdetti, terz'ultima giornata in coda, tutto da definire, anche la partita che stiamo guardando sui teleschermi è molto importante per gli equilibri della griglia playoff, perché Biella Milano, e anche di chi soffre, perché Biella e Varese sono state in pieno risucchiate nella lotta a salvezza. Ora Cremona sta vincendo con sì. Teramo, Ferrara sta perdendo a Treviso, con una Treviso che peraltro oggi si gioca le ultime carte per i playoff che sarebbe guadagnata vincendo a Siena. C'è Avellino ovviamente, che è il competitor diretto di Treviso e che gioca a Montegranaro. Insomma, la giornata, non avremo i nomi degli assassini, ma quasi. Oggi tornerei a parlare un attimo con gli ascoltatori prima di chiudere. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera, volevo parlare del Milan. Prego. Volevo dire, dopo la sgangherata campagna acquisti del Milan, che oltre a non aver preso dei buoni giocatori ha perso anche nell'immagine, perdendo uno come Kakà che va oltre il calcio per la sua bellezza, per la sua pulizia. La cosa più bella di quest'anno è Leonardo, per la sua gentilezza, per la sua sensibilità, per tutto quello che ha regalato il Milan quest'anno, nonostante la campagna proprio disastrosa del Milan. Io mi chiedo come mai Berlusconi non lasci il Milan in bellezza. Dopo, ha vinto più di tutti gli altri presidenti, perché così autolesionista di noleggiare anche la sua immagine, dimostrando che quello che ha detto in questi anni, che il Milan è un affetto di sentimento, così si sta dimostrando non vero, perché ha rovinato l'immagine del Milan, sta rovinando con Kakà, con Leonardo e con Maldini. Guardi, tutte queste domande non le deve fare a me, Roberto. Prende carta e penna, indirizzo Palazzo Chigi e le pone al Presidente del Consiglio, perché sono domande legittime, nel senso che non è una questione di sporcare l'immagine. È chiaro che questo è il sentire dei tifosi del Milan, che a Leonardo vogliono bene, lo conoscono da 13 anni, è impossibile non voler bene ad uno così. Io credo in molti rimasti, quelli che non lo conoscono bene, rimasti sorpresi da quelle esternazioni così, così convinte, e insomma i fatti sono lì da vedere. Serve un altro allenatore giovane, magari un po' più condiscendente di Leonardo, che non abbia troppe pretese, che sia disposto a dire, magari credendoci, che questa squadra così com'è, perché il Milan sarà questo anche l'anno prossimo, senza ritocchi se non minimi, questa squadra è competitiva su ogni fronte. Questo serve. Leonardo non era più disposto a dire questo, penso non l'abbia mai pensato, ma nemmeno a dire questo, e di conseguenza si è consumata questa separazione. Dario, oggi il tennis è ripreso, non mi ricordo più. Ma il tennis, ho perso il conto tra una pioggia non è ancora, non è ancora ripreso. Siamo sul 7-5-2-1 Nadal contro Ferrer. Peccato che proprio nell'ultima giornata sia la pioggia a farla da padrona. Dopo veramente un bel torneo, Carlo, quello che abbiamo visto questa settimana al Foro Italico sul nuovo centrale, eccetera, eccetera. Stavolta vince la pioggia. Sì, vince la pioggia. Questa finale è tutta spagnola. Semmai poi ricordamelo che come sapete, dalle 8:30 alle 9 saremo qui per parlarvi di basket. E poi daremo anche il finale di questa partita. Peccato per Ascavolini, che insomma stasera eravamo pronti a raccontare la finale di Eurocup, che è in corso, di Eurochallenge, scusate, che è in corso proprio in questi minuti. La Scavolini non ce l'ha fatta. Anche questo, ricordami che poi diciamo chi l'ha vinta quella coppa un po' minore. Intanto è arrivata la coppa importante, la Champions di pallavolo con Trento, quella, insomma, per tirarci su di morale, dai. Certamente. Dunque, con Biella 32 Milano 29, aggiornerei la seduta alle 20:30 quando faremo il punto su questa giornata terz'ultima di basket. Ci sentiamo dopo con Dario Ricci, naturalmente, con Giorgio De Luca in redazione e con Paolo Corleoni in regia più tardi.